Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ascoltatrici e ascoltatori, ci consentite all'inizio di questa puntata di Mebius di salutare un amico e collega. Ciao Romeo. Ciao Romeo, buon viaggio. E adesso i titoli e poi iniziamo questa puntata. Come si fa a manovrare il più grande radiotelescopio d'Europa? Si trova in Sardegna, pesa tante tonnellate e deve potersi muovere millimetro per millimetro. Curare un bambino non vuol dire curare un adulto in miniatura. Ci sono aspetti scientifici e psicologici molto peculiari nella medicina rivolta ai più piccoli. Tutto quello che non sappiamo della grande scienza araba e del perché ora non c'è più. Finalmente è giunta l'ora che l'informatica si preoccupi di comunicare con la gente. Senti Chiara, solo il nome magnifico, Pranu Sanguni. No, è bellissimo, magnifico. È il posto dove si trova questo grande coperchio, padellone, lo si dice anche in termini molto amichevoli. Provincia di? Siamo a Cagliari, vicino a Cagliari, a una trentina di chilometri da Cagliari, da dove ci parla, e lo salutiamo subito, Niki D'Amico. Buonasera D'Amico. Buonasera a voi. Buonasera. Ecco D'Amico, si tratta del radiotelescopio in questo momento più avanzato in Europa. Più avanzati in Europa e uno dei più avanzati al mondo, ha una tecnologia innovativa e quindi insomma è un vero gioiello di tecnologia. Stiamo parlando del Sardinia Radio Telescope, conosciuto così perché è stato inaugurato qualche settimana fa e in realtà però è da un po' di anni che nella comunità scientifica si parla di questo evento. Quanto ci è voluto per preparare tutto, per portare avanti tutto il progetto? L'idea nasce alla fine degli anni 90, il progetto è iniziato con i primi appalti nel 2003, quindi un tempo totale di 10 anni, che è comunque il tempo logico per la realizzazione di questi impianti, che è in linea con quello che osserva nel mondo, insomma. Oh, amichevolmente anche voi lo chiamate padelloni, in effetti è 60 metri di diametro, un oggetto che pesa quanto? Ah, stiamo parlando di 3.000 tonnellate di acciaio, fra l'altro è una struttura interamente saldata, quindi immaginate qualcosa dell'ordine di 10.000 saldature. Un lavoro veramente mastodontico. Oh, senta, noi di cosa fanno i radiotelescopi? Qui a Mebius ne abbiamo parlato spesso, magari adesso accenniamo a una particolare funzione che va a svolgere questo radiotelescopio in una rete mondiale, però quello che ci interessa oggi è che lei riesca a spiegarci come si fa con un oggetto di queste dimensioni a muoverlo con una sensibilità del millimetro, perché voi avete queste tolleranze praticamente zero, no? Sì, allora l'intera struttura meccanica ha tolleranze stringenti, si va da alcuni millimetri nella parte proprio meccanica, quindi tutta la struttura nel suo insieme, fino a frazioni di millimetro, parliamo di centinaia di micron, per la tolleranza che è stata imposta per la superficie riflettente, il grande padellone come lo stiamo affettando. Ma sì, ci sta bene, con come affetto, no, con grande affetto. E questo è dovuto al fatto che l'antenna è qualificata per osservare fino ad altissime frequenze, si parla di 100 GHz, il pubblico forse dice poco, ma sono una lunghezza d'onda di 3 mm, quindi certo. Per poter focheggiare onde elettromagnetiche che hanno lunghezze d'onda così corte, occorrono delle superfici riflettenti estremamente accurate, se no semplicemente il segnale in qualche modo si viene sfocato. Cosa avete dei motori che muovono tutta la struttura? Sono motori elettrici? Sì, pensi che abbiamo una fornitura di energia elettrica che consente picchi del megawatt, quindi a regime si muove l'antenna con alcuni centinaia di kilowatt, però per esempio laddove si dovesse muovere l'antenna con forte vento o magari semplicemente per portarla in sicurezza nella sua posizione di riposo possono esserci picchi fino a mezzo megawatt e quindi di fatto sono numeri importanti. L'antenna si muove in due direzioni, quindi fa un movimento lungo l'orizzonte, si chiama movimento azimutale, quindi ruota su se stessa su un binario circolare, quindi l'intera struttura con queste 3.000 tonnellate di ferro che arrivano a 70 metri di altezza si muove su un binario circolare, un binario dove ci sono i sistemi di carrelli, di ruote e di motori, e un diametro di 40 metri, quindi lei immagini una rotaia circolare del diametro di 40 metri e questo consente il movimento lungo l'orizzonte. Poi il padellone, come abbiamo deciso di chiamarlo, quindi la parabola, contemporaneamente può essere mossa in elevazione, quindi muoversi dall'orizzonte fino in alto in cielo, fino allo zenith, e i due movimenti possono essere combinati insieme, cioè possono avvenire contemporaneamente, e questo consente in buona sostanza di inseguire un astro, una radiosorgente, qualsiasi cosa essa sia, nel suo moto apparente. A che velocità si muove? Ma guardi, per portarla, diciamo, per portare la parabola dall'orizzonte allo zenith, quindi per riportarla in verticale, quindi sono 90 gradi, ci vogliono un paio di minuti. Ah, quindi è veloce. Sì, allora questo è il movimento ovviamente che noi facciamo per spostarla da una posizione all'altra. Ecco, mentre invece per fare un giro su se stessa, quindi per coprire i 360 gradi, sta qualcosa dell'ordine di 7-8 minuti. Quindi, questi però sono i movimenti che usiamo per far cambiare posizione. Per posizionarlo. Esatto. Poi in realtà una volta che posizioniamo l'oggetto in cielo che vogliamo tenere sotto osservazione, che vogliamo registrare, dobbiamo ovviamente seguirlo, perché il cielo ci ruota, la terra ruota, e quindi c'è un movimento apparente del cielo sulla nostra testa. Quindi cosa fate? Lo programmate? Esattamente. C'è un sistema computerizzato in cui si danno le coordinate dell'oggetto, lui provvede, diciamo, a istruire i motori per portarlo in posizione, e poi l'antenna lentamente, questo movimento impercettibile, lo segue. E anche questo richiede una notevole accuratezza, diciamo l'accuratezza angolare, insomma, con cui l'antenna riesce a tenere nel suo campo di vista un oggetto è abbastanza elevata. Immaginate qualcosa dell'ordine, qualcosa che oscilla fra un decimo e un centesimo del diametro della Luna. E ci dico un'altra cosa, quando si muovono 3.000 tonnellate c'è anche tutto un problema, per esempio quando si ferma la struttura, lì non ci devono essere momenti, come dire, di assestamento, deve essere tutto molto soft. Sì, e, diciamo, c'è tutto un complesso apparato, sono quello che chiamiamo i servosistemi, apparato di controllo, che impone la corretta accelerazione o decelerazione, quindi l'antenna all'inizio si muove molto lentamente, poi acquista la sua velocità, va a regime, e poi siccome il computer sa già dove deve fermarla, gradualmente la ferma, e il tutto avviene in maniera, diciamo, poi l'antenna ovviamente è bilanciata. Considerate che la parabola, il padellone come l'abbiamo chiamato, da solo pesa 500 tonnellate. Certo, quindi è un quindi bestione. Deve essere bilanciato. Ecco, infatti è bilanciato, cioè dietro c'è un grande vano che è stato riempito proprio di ferro e cemento, e per cui è perfettamente bilanciato. Sì, affinché non si ribalti, chiaramente. Ma senta, è sempre attivo? Cioè funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Allora, in linea di principio sì, intendo dire salvo periodi di manutenzione, sistemazione e cose varie, però dal punto di vista astronomico noi possiamo fare radioastronomia di giorno e di notte a qualsiasi ora, mentre nell'astronomia tradizionale abbiamo bisogno della notte. Certo. E le onde radio invece arrivano anche di giorno. E prima abbiamo accennato solo brevemente, adesso le chiediamo in chiusura, della funzione che ha questo radiotelescopio a livello mondiale. C'è una tecnica che è stata sviluppata a livello mondiale, che è quella in cui i radiotelescopi posizionati in vari punti del pianeta lavorano insieme. Sfruttando la rotazione della Terra, questi elementi sensibili disposti in vari punti della Terra riescono a fare, immaginate, una sorta di topografia della radiosorgente lontana, quindi ruotando attorno alla linea di vista della radiosorgente si realizza quella che con una tecnica peraltro simile a quella della tomografia assiale, insomma, e questo consente di ottenere dettagli su questa radiosorgente paragonabili a quelli che potremmo ottenere con un unico radiotelescopio pari alla dimensione del territorio su cui sono sparsi questi radiotelescopi. Un macro strumento praticamente viene fuori. Esattamente. Decine, centinaia di chilometri, insomma, un oggetto che non potreste costruire. Esatto, ma anche di più. Va bene, D'Amico, l'avventura è appena iniziata. Sì. Aspettiamo notizie. In bocca al lupo. Benissimo, grazie tanto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ecco, questa è una di quelle cose banali che però invece non, nella nostra testa non l'abbiamo. Ecco, banali, tu dici nel senso, sono concetti semplici che però in realtà invece racchiudono... Invece non è diffuso, no? Assolutamente curare no. Curare i bambini. Noi nel nostro titolo, ovviamente i titoli sono sempre brevi e non esplicativi, però abbiamo detto in maniera proprio immediata, curare un bambino non vuol dire curare un adulto in miniatura. Ecco, vorremmo cominciare cominciare a raccontare un pochino un filone di questa disciplina, insomma, che è la medicina, la ricerca legata ai più piccoli, e vorremmo iniziare con un'eccellenza chiaramente italiana a fare un discorso generale proprio su che cosa significhi curare un, non un adulto in miniatura, ma proprio un altro animaletto, un altro essere umano. Partiamo quindi, direi, dall'eccellenza, che è l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, e qui con noi stasera abbiamo il direttore scientifico dell'ospedale. Intanto buonasera e benvenuto a Bruno Dalla Piccola. Buonasera a tutti voi. Abbiamo detto correttamente che un bambino non è un piccolo adulto? Esattamente, è una definizione perfetta, e per sottolineare questo aspetto vi voglio ricordare che non molto tempo fa la comunità europea ha deciso che i farmaci che venivano dati ormai da tempo sui bambini, che non erano stati oggetto di sperimentazione sui bambini, perché sui bambini molti farmaci sono semplicemente dosi ridotte rispetto alle dosi dell'adulto, ha deciso la comunità europea che bisogna incominciare a sperimentare questi farmaci singolarmente sui bambini, per la ragione semplice che il metabolismo, cioè quindi tutto l'insieme delle reazioni chimiche che sono presenti in un bambino, sono molto diverse da quelle dell'adulto, quindi ci vogliono delle sperimentazioni dedicate. Proprio combinazione, settimana scorsa parlavamo dei trial farmacologici, quindi la comunità europea prevede proprio dei percorsi paralleli. Esattamente, tant'è vero che all'ospedale Bambin Gesù abbiamo creato un trial center, cioè un centro per la sperimentazione, che ovviamente è dedicata non solo alla sperimentazione di farmaci, di molecole innovative. Voi pensate al problema, ad esempio, anche dei cosiddetti farmaci orfani per le malattie rare, che sono un problema molto grosso per un ospedale pediatrico, ma anche proprio la sperimentazione di molecole già in uso, che devono essere comunque adattate per le loro caratteristiche al profilo dei bambini. Quindi la diversità è proprio grossa. Assolutamente sì, è un metabolismo completamente diverso, ma oggi che siamo proiettati nella medicina genomica e quindi nella funzione dei geni, noi possiamo dimostrare molto chiaramente che il profilo complessivo della funzione di un genoma di un bambino è completamente diverso da quello di un adulto. Quando noi facciamo questi profili vediamo dei segnali che ci indicano che molti geni di un bambino molto piccolo sono ancora spenti e che si riattivano nel corso della vita. Quindi, siccome noi siamo l'insieme dell'interazione tra il nostro genoma e l'ambiente, possiamo immaginare quanto è importante conoscere questo aspetto che è relativo al nostro genoma e alla funzione dei nostri geni. Quindi diversità dal punto di vista proprio genetico, anatomico, e poi c'è tutto un aspetto ovviamente legato anche alla cura e alla psicologia del bambino, del ricoverato. Assolutamente, e noi in questi giorni abbiamo inaugurato al Bambin Gesù una nuova attività, che è l'Istituto della Salute del Bambino e dell'Adolescente. Cioè abbiamo incominciato a capire che ci dobbiamo interessare non solo di bambini ammalati, ma anche ovviamente un bambino che deve crescere. E quello che abbiamo sviluppato come concetto è il concetto di esposoma, cioè un bambino cresce, ma cresce in un qualcosa che è l'ambiente al quale è esposto, e questo ambiente è l'ambiente della naturalmente degli stili di vita, quindi dell'alimentazione e dei farmaci, ma anche l'ambiente che viene dalla famiglia, dalla scuola, dall'attività sportiva che svolge, e tutto questo modula il suo cervello, la sua esistenza, un momento in cui una struttura plastica come il cervello viene imprintato, riceve quindi un'impronta dall'ambiente. Quindi ecco perché è molto importante agire sul bambino tanto più è piccolo, mettendo in un ambiente che sia del tutto favorevole. Lì al Bambin Gesù avete tantissime specializzazioni, tantissimi dipartimenti. Magari le chiediamo, in questa fase in cui stiamo parlando in maniera un pochino generale, di farci magari qualche esempio per farci capire nel concreto quanto sia differente curare appunto un bambino e un adulto. Ovviamente noi abbiamo preparato questa intervista prima, parlavamo dei trapianti, cioè di quelle malattie anche piuttosto gravi, trapianti di cuore. Lì ci sono proprio delle differenze molto forti. Beh, assolutamente sì, noi siamo credo l'unico ospedale pediatrico europeo che è in grado di fare tutti i tipi di trapianti che sono al momento disponibili su un bambino, quindi parliamo di cuori, di polmoni, parliamo di rene, parliamo di cute, parliamo di corne, eccetera. Uno degli aspetti su cui l'ospedale Bambin Gesù da sempre è stato all'avanguardia è stato naturalmente il trapianto cardiaco. Ora, sul trapianto cardiaco stiamo facendo dei notevoli progressi, perché al di là del tradizionale trapianto, che è la sostituzione di un organo, che comunque è un intervento veramente molto importante dal punto di vista anche della complessità tecnologica, ci siamo organizzati ormai da tempo, è stato stato attuato, un sistema che funziona come un ponte, come un bypass, cioè spesso un bambino è arrivato alla fine della sua funzione cardiaca e il cuore non è ancora disponibile. Allora ci si è organizzati lungo due direzioni, da un lato quello di trovare un sistema che comunque mantenga in vita il bambino come fosse attaccato a una macchina compressa, ma in questo caso è un cuore miniaturizzato, piccolissimo come la falange di un dito, che serve a determinare per un certo numero di molti mesi anche la funzione sostitutiva che il cuore ormai sfiancato non è in grado di fare. Ed è inserito nel torace, cioè non è esterno. Esattamente, su questo abbiamo un'esperienza e credo che possiamo dire che siamo veramente all'avanguardia a livello mondiale su questo tipo di interventi. Ecco, ma senta dalla piccola, infatti, riuscite a lavorare su un organo come il cuore, come su altri organi, che sono di una dimensione, come dire, il bisturi è decisamente più grande, no? Come sì, si fa? Esattamente, è la capacità, della manualità dei nostri chirurghi. Evidentemente io che nella vita faccio genetista non posso dire che una manualità così eccellente come hanno questi colleghi che attraverso una serie di esperienze fatte anche prima sui modelli animali e poi direttamente sull'uomo sono riusciti a veramente a miniaturizzare la loro tecnica. E devo dire che oggi questo consente veramente di dare la vita a delle persone che alternativamente sarebbero condannate. E l'altra cosa che però mi premeva ricordare è un'altra cosa su cui voglio dire forse esprimiamo un certo tipo di eccellenza come ospedale, è quello di non lasciare da parte il cuore che ha malato, ma incominciare a pensare che quel cuore che ha malato può essere in parte riparato. E questo naturalmente è un qualcosa che viene dalle cellule staminali, quindi le cellule staminali prelevate dal midollo del bambino possono essere orientate in senso muscolare e possono tornare al paziente direttamente sul muscolo cardiaco che viene in parte ripopolato e che quindi può essere in parte curato. Sostituite e in qualche modo riparate, tornare funzionanti insomma. Esattamente, quello che voglio dire, mi preme sottolinearlo perché quando si parla di questi argomenti delicati bisogna essere sempre molto prudenti, a differenza del successo straordinario che hanno le cellule staminali oggi per la cura ad esempio delle leucemie o dei tumori, noi facciamo più di 150 trapianti ogni anno nel nostro ospedale in termini di trapianti di midollo osseo per recuperare i pazienti e far guarire i pazienti che una volta hanno una malattia incurabile. Questa è una tecnica consolidata, complessa anche questa per tutto il contorno che c'è a questo tipo di intervento, ma comunque che funziona molto bene. La rigenerazione del muscolo cardiaco è una cosa molto nuova, molto iniziale, che sta dando i primi risultati incoraggianti, ma sui quali c'è sicuramente ancora molto da fare. Ricerca, certo. Assolutamente. Ecco, lei ovviamente ha sottolineato l'eccellenza, ovviamente c'è tantissima tecnologia nei vostri dipartimenti e come dicevamo prima, raccontando un pochino i vostri esempi di successo, abbiamo ricordato fuori onda degli scheletri robotici che aiutano i bambini nella riabilitazione quando appunto hanno subito lesioni piuttosto gravi, non riescono a camminare, non riescono a tornare in piedi. Ecco, anche su questo vorremmo chiederle insomma di raccontarlo anche agli ascoltatori. Sì, noi abbiamo una divisione di robotica che ha messo a punto una serie di prototipi veramente originali coperti anche da brevetto per riabilitare alcune funzioni tipo il ginocchio, la caviglia, tanto per intenderci, e una cosa sulla quale ci siamo mossi 3 anni fa e sul quale siamo stati i primi in senso assoluto al mondo è di utilizzare dei cosiddetti esoscheletro, che è una struttura diciamo che serve a diciamo a supportare soprattutto il camminare, quindi gli arti inferiori, è dotato di un piccolo motore che viene portato diciamo sulle spalle del paziente, e per la prima volta questo strumento che era stato utilizzato soprattutto e solo anzi sugli adulti siamo riusciti a portarlo sui bambini. E posso dire la commozione, io mi ricordo il primo giorno quando una ragazzina che aveva una quindicina di anni, che da 2 anni a seguito di un trauma sulla colonna era costretta ad una vita orizzontale, è stata rimessa in piedi e ha cominciato a muovere i primi passi. E devo dire che questo è veramente un successo, che questo è stato veramente un prototipo, l'inizio di un'attività sulla quale adesso noi cerchiamo di produrre ulteriori miglioramenti, perché al momento l'esoscheletro viene utilizzato solo ai soggetti diplegici, cioè sono quelli che hanno gli arti inferiori che non funzionano ma sono in grado di appoggiarsi sugli arti superiori, L'idea prossima è quella di sviluppare un qualche cosa per i paraplegici, cioè per quelli che hanno tutti i quattro arti non funzionanti, e questo naturalmente è parte della nostra officina robotica e un sogno che speriamo di poter realizzare nei prossimi anni. Dalla piccola vorrei ritornare un attimo agli aspetti psicologici. Un bambino ricoverato in ospedale ha una percezione di questa sua condizione che certamente è molto diversa da quella di un adulto. L'adulto a un certo momento finisce in ospedale e, come dire, capisce che cosa gli è successo e perché è lì. Poi gli dispiacerà enormemente, ovviamente, ma probabilmente un bambino si domanda che cosa diavolo fa lì. Voi dovete prendere cura, ovviamente. Come si fa? Assolutamente, questo lo facciamo innanzitutto con una larga missione dei familiari e dei genitori in primo luogo attorno al letto del paziente, con un gruppo di psicologi preparato soprattutto per le patologie più complesse. Pensiamo ai bambini che fanno terapia antitumorale, che perdono i capelli, quindi hanno una serie di problematiche piuttosto anche psicologiche. Sono un bel bambino che si vede diventare improvvisamente senza capelli in testa, e naturalmente quindi con una discussione, con una preparazione del bambino. E poi un'altra attività che abbiamo avviato proprio per far sentire il bambino più una situazione tra virgolette di normalità è quello di aver creato una scuola, cioè i bambini che vengono qui, che sono cronici nel senso che hanno bisogno di ricovero per diversi mesi, hanno un supporto scolastico in modo tale che rimangono insomma il più possibile in un ambiente che è vicino a quello che sono abituate. Sì. Naturalmente abbiamo pensato molto anche a modificare un po' gli ambienti dove vivono i ragazzi. Abbiamo un aspetto, una parte tutta ludica per i giochi, dove i bambini che possono muoversi, soprattutto con la bella stagione, possono uscire e giocare. Quindi stiamo cercando di farli sentire il più possibile a casa. Ci rendiamo conto che è un'impresa molto difficile, ma anche su questo ce la stiamo mettendo tutta. Dalla piccola, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma sono sicura che torneremo su questo argomento. Con molto piacere. Buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi. Buona serata. E fra l'altro, Chiara, dobbiamo segnalare, proprio per quello che dicevamo all'inizio, che durante la notte dei ricercatori che c'è stata appena qualche passata settimana fa, l'associazione Frascati Scienza, che cura per esempio proprio la promozione del Bambin Gesù, insomma lì sono arrivate 1000 persone a visitare è l'ospedale. Importante che insomma tutti sappiano e tutti vengano, certo, a conoscenza di questo. Bisogna saperne sempre di più. Allora pausa e poi parliamo di scienza e Islam. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ho letto un bel libro e ne ho parlato con l'autore, Jim Al-Khalili. Il libro è edito da Bollati Boringhieri e si intitola La casa della saggezza, l'epoca d'oro della scienza araba. Al-Khalili è un bravissimo divulgatore, è un fisico teorico che insegna in Inghilterra alla Università del Surrey. Sono troppe le cose che non sappiamo della storia della cultura araba. Infatti io inizio da qui l'intervista con Jim Al-Khalili. Gli ho chiesto come mai in questa parte del nostro pianeta, il mondo arabo, intorno all'800 d.C. si assiste a una vera e propria esplosione della cultura scientifica. Yes, it would seem very surprising to suddenly... Sì, può sembrare davvero sorprendente scoprire come improvvisamente vi sia un'esplosione di cultura scientifica in questa parte del mondo. Ma la scienza non evolve mai in modo isolato. E noi verifichiamo che la conoscenza passa sempre attraverso gruppi che la custodiscono. In Medio Oriente c'erano piccoli gruppi che appartenevano alle comunità ebraiche o cristiane durante l'impero bizantino. C'erano anche gruppi di persiani. Quando il mondo islamico si espanse con forza, emerse l'impero degli Abbassidi. Questo impero era ricco e quindi aveva tutti i mezzi per far tradurre, ad esempio, tutti i testi in arabo. E poi nella cultura islamica si diffuse una passione quasi ossessiva per la conoscenza contenuta in quelle ricerche. Quindi lei dice che la scienza è un fenomeno culturale che può scattare immediatamente se ci sono degli ingredienti come documenti, testi e anche possibilità di investimento di denaro. Beh, deve esserci il seme della scienza, la passione. Se guardiamo ai nostri tempi, vediamo che nei paesi arabi c'è molta ricchezza. Ci sono anche università, ma non c'è un reale fermento, un interesse per il pensiero libero. Quello che avevamo in quella stessa parte del mondo 1000 anni fa. Quindi, se non c'è gente che ha questa passione, allora non può svilupparsi scienza. La scienza non può nascere dal niente. the science that came before them, because they don't start from zero. Parliamo proprio di questo periodo della grande traduzione. Lei ha assolutamente ragione. Nella nostra cultura, nelle nostre scuole, nelle nostre università, non abbiamo conoscenza, insomma, di questo singolare e fortissimo fattore culturale. Yes, it is true. We don't learn about that. If we know sì, è proprio così. Se sappiamo qualcosa di quella attività, è perché pensiamo che gli arabi conservarono e tradussero tutta la scienza greca per poi trasmetterla a quella europea secoli dopo. E quindi ignoriamo i grandi sviluppi che furono apportati a quella conoscenza. Questo periodo delle traduzioni iniziò intorno all'800 dopo Cristo e continuò per circa 200 anni. Hanno tradotto una quantità impressionante di testi. They translated an incredible amount of books. Si trattò di un'enorme quantità di testi. Aristotele, Platone, Euclide. Ogni studente di quell'epoca era tenuto a conoscere questi testi. Quando in una delle tante guerre sconfiggevano una popolazione, non erano interessati a procurarsi denari, ma libri. Furono tradotti centinaia e centinaia di testi, alcuni anche più volte. Nel suo libro c'è un concetto fondamentale, e cioè non c'è scienza araba senza religione islamica. Però il fatto è che questa relazione tra scienza e Islam è una relazione positiva. E invece noi, per esempio in Europa, i rapporti fra scienza e religione sono stati di tutt'altra natura. Sì, questo è assolutamente vero. E io posso dirlo con molta sincerità, perché mia madre è cristiana, mio padre è musulmano, ma io non sono affatto religioso. E quindi quando parlo di religione e Islam, sento di potermi dichiarare assolutamente oggettivo. Nella cultura araba, per esempio, studiarono attentamente il cielo, e quindi l'astronomia, anche perché volevano sapere bene come raggiungere la Mecca. Studiarono la medicina perché una componente importante della religione islamica pone l'accento sulla pulizia, ma poi la ricerca scientifica si sviluppò anche indipendentemente dalla cultura religiosa e gli scienziati iniziarono magari a studiare partendo da un'esigenza religiosa, ma poi proseguirono autonomamente. Studiavano perché, molto semplicemente, erano curiosi e questo è esattamente quello che accade oggi. Le faccio un'ultima domanda però che riguarda quello che succede adesso e anche quello che è successo in fondo negli ultimi 100 anni, 150 anni, cioè questa grande tradizione culturale scientifica araba si è spenta. Non credo che ci siano strane ragioni alla radice di questa vicenda, che fra l'altro a me dispiace anche molto, ma le cose vanno così. Il mondo arabo è diventato molto meno ricco, c'è stata una grande involuzione politica e così si è sviluppata una cultura addirittura antiscientifica. Però dovremmo chiederci perché anche la cultura greca è scomparsa. Le civiltà crescono e poi scompaiono e la loro scienza finisce in secondo piano, ma altre civiltà prendono il testimone e spingono la scienza. Takes a back seat, but someone else, some other civilization, will take up the baton and they will push science forward. Questa è la storia. The nice thing about science is that it. La cosa importante è che la scienza non dipende dalle religioni, dalle specifiche culture, dalle razze, dalla politica. La scienza è la ricerca che la nostra specie continua a fare e questa si sviluppa sempre. Basta che non si smetta di pensare. Allora vi ricordo il libro, Jimal Khalil l'autore, Bollati Boringhieri l'editore, La casa della saggezza, l'epoca d'oro della scienza araba. E adesso ascoltate, ma qui ritorniamo ai piccoli, ascoltate Chiara Albicocco e Paolo Arebusco da Boston che parlano di quando le mamme tengono in mano i neonati, ma non solo i loro, anche quelli degli altri. La nostra corrispondente Paola Arebusco da Boston. Ciao Paola, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Tutto bene? Sì, benissimo. Ogni tanto ci sentiamo da oltreoceano per raccontare un pochino le ricerche che ci sono lì. E questa volta ce ne vuoi raccontare una molto particolare sull'odore dei neonati. In realtà l'ha introdotta Federico e qui si tratta di una ricerca piuttosto strana, bizzarra e anche dai risultati particolari. Sì, è uno studio su come l'odore dei neonati ci faccia venire voglia di mangiarceli. Cioè, dici bene, di mangiarceli proprio. Sì, di mangiarceli. mangiarceli, non ti è mai venuta voglia di sbocconcellare un bambino? Quando lo prendi e lo vuoi mordere, da quanto ci fa tenerezza? No, in realtà è un circuito, ci sono dei recettori neurali che funzionano proprio quasi come funziona la fame e la voglia del cioccolato, no? Esatto, proprio il loro odore attiva le regioni del cervello legate al piacere e alla dipendenza. Diciamo, è un modo tramite cui il neonato attira gli adulti che se ne prendono cura. E lo studio, se non erro, è internazionale, ma è stato fatto a Montreal. Diciamo che i ricercatori con a capo Joan Frasnelli, che forse ha anche origini italiane, ha testato due gruppi di donne. Io entrerei nel dettaglio perché anche l'esperimento mi sembra buffo. Allora, il gruppo di ricerca internazionale, come dici tu, c'è un postdoc adesso in Canada. In realtà l'esperimento è stato svolto a Dresda, in Germania, su un gruppo di 30 donne non fumatrici, la metà neomamme e la metà invece che non sono mai state mamme. Cosa hanno fatto? Hanno preso queste partecipanti e hanno fatto annusare l'odore dei neonati. Cioè, hanno preso l'odore dei pigiamini di un reparto neonatale di un ospedale appunto di Dresda e l'hanno sottoposto all'olfatto proprio delle signore. E nel frattempo i ricercatori raccoglievano immagini del cervello in tempo reale. Ecco, questo è il punto interessante, nel senso che attraverso il brain imaging, come lo chiamiamo, cioè proprio queste immagini che ci vengono restituite dell'attività cerebrale, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che in entrambi i gruppi l'aroma dei bebè attiva il circuito neuronale legato alla ricompensa al piacere. Ecco, l'effetto è più forte nelle neomamme, cioè dura più a lungo ed è un effetto più intenso. Allora, praticamente vengono stimolati quei recettori neurali del cervello legati alla dopamina, che sono gli stessi, diciamo, neurotrasmettitori che si attivano quando, ad esempio, abbiamo fame, vogliamo soddisfare un piacere anche sessuale, ci dicono i ricercatori, e sarebbe più forti nelle neomamme. E questo si può spiegare il perché? Cioè i ricercatori ci dicono qualcosa? Ma in realtà non lo sanno ancora, non si sa se è legato ai cambiamenti ormonali, all'esperienza del parto, oppure proprio all'attività, all'esperienza con i propri figli. Questo è ancora oggetto di studio. La cosa che puoi confermare è che tu, essendo neomamma, succede davvero. Sì, decisamente. E dovrebbero fare uno studio anche sugli uomini, perché penso che anche i papà abbiano questa voglia di mangiarsi neonati. Quindi forse sarebbe veramente legato a un cambiamento, a un'influenza ormonale, però per entrambi i sessi, ecco, non soltanto legato al parto, ma questo sono delle illazioni che stiamo facendo io e te, via. Sì. Hai nominato la dopamina. La dopamina, sì, è appunto il principale neurotrasmettitore in questo circuito del piacere e è associato alla dipendenza di tabacco, droghe e alla voglia di mangiare determinati cibi come la cioccolata e alla sensazione di acquolina in bocca. Ecco, noi per quanto diciamo abbiamo voglia di mangiarci i neonati, poi non li mangiamo. Rimaniamo insoddisfatti. Esatto, rimaniamo insoddisfatti. Però si crea una sorta di dipendenza grazie all'odore, per cui vogliamo stare più vicini ai neonati e prendersene cura. Quindi diciamo a livello evolutivo ha senso, sia per gli uomini che per le donne, di prendersi cura dei neonati. E forse anche per gli animali in generale, cioè un po' il meccanismo che si genera nel momento in cui i piccoli richiedono le cure e noi insomma dovremmo dargliene. Esattamente, sì. Va bene. Una questione di sopravvivenza. Grazie Paola, davvero interessante. Insomma, aspettiamo notizie da oltreoceano, lo sai che noi siamo qua sempre in attesa. Benissimo, alla prossima. Ciao Paola, grazie. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi sto per parlare, ve lo dico in gergale inglese tecnico, di human interface, cioè interfaccia umana, ma interfaccia con le macchine. È qualcosa che, probabilmente detto così, vi può sembrare uno di quegli argomenti un po' complessi, difficili da spiegare, che ogni tanto cerchiamo invece di affrontare qua a Mebius, e invece è qualcosa che appartiene quanto mai al nostro vissuto. Entriamoci dentro. Intanto vi presento i nostri due ospiti di questa sera. Massimo Zancanaro, buonasera. Buonasera. Lei è della Fondazione Bruno Kessler di Trento e lì di che cosa si occupa dal punto di vista della ricerca? Esattamente della Human Computer Interaction. Cioè Human Computer Interaction, ancora più rotonda come definizione. Sì. Benissimo. Della modalità con cui si progettano, si potrebbero progettare, ecco, le tecnologie, i computer in particolare, per tenere in considerazione che sono usate da persone. Lei giustamente ha già introdotto il congiuntivo, perché questo è il clima in cui ci muoveremo. Antonella De Angeli, buonasera. Buonasera, salve. Lei è dell'Università di Trento, no? Sì, e mi occupo dello stesso... Esattamente, delle stesse cose. Del studio di come gli esseri umani utilizzano la tecnologia con l'idea di cercare di creare delle macchine che siano più human friendly. Massimo Zancanaro e Antonella De Angeli hanno organizzato recentemente, un paio di settimane fa, un convegno esattamente su queste tematiche. Allora, senta Zancanaro, ci siamo sentiti prima di questa intervista, lei mi raccontava un aneddoto che può essere quanto mai paradigmatico di questo problema, ce lo ricordi? Sì, di aneddoti ce ne sono moltissimi, questo in particolare a me va colpito perché è una storia che mi ha raccontato una persona che progetta delle grosse macchine industriali quindi per clienti molto specializzati. Capita abbastanza spesso, a dire il vero, mi ha raccontato che dei clienti lo chiamino per avere delle macchine più avanzate con delle nuove funzionalità e questa persona in modo molto imbarazzato deve spiegargli che la macchina che hanno comprato, cioè hanno già comprato, contiene queste funzionalità che ora vorrebbero acquistare. Questo perché queste utenti, anche se esperti appunto perché utilizzano queste macchine avanzate, comunque non sono in grado di capire. Cioè l'interfaccia, sono macchine che magari hanno anche loro dei display, non si riesce a capire come accedere a delle funzioni che invece ci sono. Perché sono... Quindi imparano a usare quello in modo molto automatico, quelle cose di cui hanno bisogno, ma non sono in grado, non si azzardano di andare a vedere oltre. Ecco, allora Antonella, siamo tutti scemi oppure è arrivato il momento, e siamo drammaticamente in ritardo però, di prendere questo toro per le corna e vedere effettivamente di avere dei sistemi di dialogo con queste macchine che siano a dei livelli dignitosi? Perché abbiamo in giro veramente dagli smartphone a appunto macchine anche per usi aziendali, come ci ricordava adesso Zancanaro, abbiamo veramente degli orrori, no? Direi che la problematica principale nelle interfacce del giorno d'oggi è un'eccessiva complessità, nel senso che si è privilegiato un approccio molto tecnologico per cui vogliamo mettere moltissime funzionalità nello stesso display, e questo ha il problema però che gli esseri umani non sono in grado di gestire velocemente e in modo spontaneo tutta questa complessità. Per cui sicuramente c'è bisogno di un grosso sforzo di semplificazione, anche di comprensione di quali sono i bisogni reali. Se noi guardiamo un software che tutti usiamo, quale Word ad esempio, la persona media probabilmente usa il 10, il 15%. Andare sulla grande, direi. Delle funzionalità che vengono offerte. Quindi diciamo che a livello di ricerca i filoni in cui ci si sta spingendo è proprio quasi di fare sparire l'interfaccia, cercare di creare delle cose che siano molto finalizzate e siano però molto più semplici da essere utilizzate dalle persone. Certo. Le chiedo, Zancanaro, la mia impressione come utente e direi abbastanza robusto di questo tipo di tecnologie è anche che ci sia un errore di fondo, e cioè tutte le cose che si possono fare sono messe esattamente sullo stesso piano, mentre invece ci sono delle cose principali, no, che sono fondamentali e potrebbero essere raccolte e fatte vedere per prime, e poi dopo tutta una serie di funzioni molto più precise e specificate, mentre invece quello che viene proposto, per esempio con gli smartphone, è una specie di marmellatona uniforme, no? Sì, questo come appunto diceva prima Antonella, deriva particolare perché oggi la tecnologia è guidata da quello che si può fare. E c'è però anche l'altro aspetto, quello di capire che cosa ha senso fare, che cosa davvero è un aspetto abilitante per le attività che si vogliono supportare con la tecnologia e quale invece no, o quale potrebbe essere un'altra. Spesso si ha l'impressione nel mondo della tecnologia che ci siano soluzioni in cerca di problemi, no? I tecnologi fanno delle cose e poi vanno in giro a cercare che problemi potrebbero risolvere. Sì, adattare la realtà ai database e non viceversa, per esempio. Io credo che questa cosa debba esserci, cioè, all'interno dei laboratori e delle aziende più di base sulla tecnologia, però è necessario ed è fondamentale oggi avere anche l'altra prospettiva, quello di partire dai problemi e cercare in che modo la tecnologia può essere una soluzione di questi problemi. Antonella, però vediamo anche che ci sono per esempio le come si chiama in gergale, la localizzazione di un software, cioè la sua traduzione nasce tipicamente in madrelingua inglese e poi viene tradotto nelle varie lingue. Ora ci sono ma veramente tanti, dei casi in cui assistiamo a delle traduzioni orrende che creano una confusione immane, e stiamo parlando però di prodotti dietro i quali ci sono investimenti di sviluppo impressionanti. Questo è proprio un errore culturale, perché in un paese come il nostro abbiamo grandissimi traduttori di romanzi, di saggi inglesi, che sono perfettamente in grado di non commettere quegli erroracci. È molto interessante, e secondo me non è soltanto un problema di traduzione linguistica, ma è anche un problema del fatto che la tecnologia è stata sviluppata e viene sviluppata in alcuni contesti socioculturali e politici, e poi viene trasportata in contesti molto diversi. Ora, la grossa differenza fra gli Stati Uniti e l'Europa non si sente così forte come invece si sente nel momento in cui questa tecnologia viene portata in mercati emergenti quali l'India, la Cina, eccetera. Io mi sono trovata a fare un grosso studio etnografico in India per una compagnia che produce bancomat NCR, per cui lavoravo a Londra, e mi sono accorta che una tecnologia che a noi può sembrare così semplice e scontata come il bancomat invece si basa su tutta una serie di assunzioni sociali, di gruppo e di interazione delle persone che in India crearono dei problemi. Ad esempio, il fatto che loro si passavano le carte uno con l'altro, perché per loro questo è un atteggiamento molto più accettato, molto più condiviso. Quindi diciamo che io, quando parlo di traduzione nel caso della tecnologia, mi interessa anche vedere proprio l'inserimento della tecnologia nella vita delle persone, cose potrebbero non essere utili per noi. Però io mi riferivo anche al fatto che, per esempio, in uno degli smartphone più diffusi adesso, a un certo momento appare una scritta che dice "non sei registrato in rete", e quello per noi vuol dire che dovevamo registrarci presso uno strano ufficio internet che ci consente di andare in rete, mentre invece in inglese register vuol dire, può significare anche che non sei connesso, no? Che non, la rete non ti riconosce. Ora, questi erroracci qui sono veramente, come dire, ormai non più tollerabili. Certo, certo. E semplicemente riflettono un po' una cultura che queste cose si fanno all'ultimo minuto velocemente e non utilizzando competenze come ad esempio i bravi traduttori, eccetera. Esatto. Questo semplicemente rispecchia un po' il fatto che non viene data la dovuta importanza all'interfaccia, alla cosa che mi permette di comunicare con la macchina. Però in generale sembra una battaglia dura, non facile. Secondo me sì, la battaglia è molto dura, e credo che in un periodo di recessione come questo lo diventa ancora di più, perché vuol dire introdurre nuove competenze nei team di lavoro. Però credo che sia esattamente questa la direzione in cui andare. Però non basta prendere il sociologo, lo psicologo e metterlo nel team di technology, perché si fa solo confusione. Bisogna riuscire a formare delle persone nuove che nascano da ambienti diversi, che siano un po' meticce, cioè che abbiano competenze trasversali. Che abbiano competenze trasversali, pur mantenendo delle specificità più proprie delle proprie discipline. Ecco, a Trento, Antonella De Angeli, c'è un nucleo che sta crescendo in questa direzione. La necessità sta diventando chiara a tutti, perché anche negli ambienti di ricerca ormai la gente ha sviluppato fino al punto che vuole cominciare a testare nel mondo reale la tecnologia. Purtroppo in Italia io noto, perlomeno in paragone con il Regno Unito, dove ho vissuto molti anni, c'è meno attenzione anche da parte dell'industria. Molto spesso mi sembra che venga considerata come l'ultimo passaggio prima di andare sul mercato. Massimo Zancanaro, Antonella De Angeli, buona ricerca e buon lavoro. Grazie mille. Siete contenti allora che si incomincia a mettere mano a queste tremende videate che ci appaiono su smartphone e su computer? Speriamo che ce la facciano. Questo è tutto per questa puntata di Mebius, ci sentiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.